punto di Stefano Folli. Nel risultato la macchia di leopardo dei ballottaggi, dove a vincere davvero è l'astensione, è difficile cogliere una coerenza. È un voto diverso da comune a comune. L'effetto Renzi esiste quando lui è in campo, un po' come capitava un tempo con Berlusconi. Quando non c'è, le cose cambiano. Per il resto si vede quanto sia frastagliata la mappa politica italiana. Certo, c'è il caso di Livorno, il più clamoroso sul piano mediatico. La vittoria del Movimento 5 Stelle si deve ovviamente anche a Grillo, ma non esclusivamente a Grillo. È il prodotto di una situazione locale, infatti non si ripete altrove. Avremo come a Parma un sindaco 5 Stelle che non è un semplice emissario del leader, con le tensioni quindi che ne derivano, e questo vorrà dire qualcosa. Quanto al PD, la sconfitta dimostra che c'è un lavoro di rinnovamento che in molti comuni, anche importanti, non è nemmeno cominciato. L'immagine di Renzi vale al vertice della piramide, ma alla base, nei comuni e nelle regioni, il PD è ovviamente quello di sempre, con le sue luci e le sue ombre.